Linee d'ombra di Matteo Caccia. Sono diventato insomma l'elemento adatto ad essere maltrattato un po' come migrante, un po' come persona non considerata in quell'ambito, in quell'abitudine che loro avevano. Un bel giorno fui catturato da una specie di banda di bianchi locali, portato a forza in un cortile. Mi spogliarono gettando la mia roba in terra e mi legarono a un palo. Storia di un ragazzino italiano nel Sudafrica dell'apartheid e di Rodney King in una puntata che si intitola Bianco e Nero. Allora, ascoltate, dobbiamo aprire bene gli occhi. Ci sono più di 2 milioni di immigrati clandestini che dormono sulla nostra terra stanotte. Questo Stato ha speso 3 miliardi di dollari l'anno scorso per l'assistenza a persone che non hanno il diritto di stare in America. 3 miliardi di dollari. 400 milioni di dollari solo per tenere in cella quella massa di porci criminali che sono in questo paese solo perché all'immigrazione hanno deciso che non vale la pena fare delle discriminazioni tra i carcerati. A chi gliene frega, al nostro governo non gliene frega. La polizia di frontiera è una barzelletta. Perciò chi rimane sorpreso se a sud del confine ridono di noi e delle nostre leggi? Già! Ogni notte migliaia di questi parassiti si riversano oltre il confine come se andassero alla fiera della cuccagna. Non ridete! Non c'è proprio niente da ridere. Qui si tratta della vostra vita e della mia. Di onesti lavoratori americani che oggi vengono ignorati e trattati di merda perché il loro governo si preoccupa più dei diritti costituzionali di un gruppo di persone che non hanno la cittadinanza. Il bianco e il nero si intitola questa puntata di Linee d'ombra. La voce che avete sentito era quella del doppiatore di Edward Norton, che nel 1998, quindi più di 22 anni fa, era il protagonista. Credo che fosse uno dei suoi primi film, probabilmente, di Edward Norton, quello che l'hanno reso anche piuttosto famoso. Era appunto protagonista di questo film che si intitolava American History X, e Norton era un ex carcerato, era appena uscito dal carcere quando raccontava, faceva questo monologo davanti a un gruppo di amici con una svastica tatuata sul petto, ed era di fatto un nazischin, apparteneva a un gruppo di giovani neonazisti che se la prendeva terribilmente con tutti gli immigrati, che avevano ovviamente la responsabilità di tutte le colpe, avevano tutte le colpe, perdonatemi, di tutti i problemi che riguardavano gli abitanti americani, soprattutto gli abitanti americani di pelle bianca. La puntata di oggi si intitola Il bianco e il nero perché vi raccontiamo due storie che hanno proprio a che fare con questo tema, però ribaltate. Una è la storia di quella del nostro ascoltatore, di Renato, che da ragazzino, per motivi familiari, negli anni, fine degli anni 60, si ritrova a vivere in Sudafrica e ci racconta delle difficoltà a integrarsi in quella città, a Port Elizabeth e nella scuola che comincia a frequentare. E la seconda storia invece è una storia che abbiamo rievocato proprio oggi, perché oggi è un giorno particolare. Oggi è il 3 di marzo, e il 3 di marzo del 91, esattamente 19 anni fa, una sera un ragazzo che nella vita faceva il regista usciva di casa portandosi dietro una videocamera e durante la notte riprendeva un pestaggio che veniva effettuato dalle forze dell'ordine americane, della polizia americana, nei confronti di un ragazzo che faceva il tassista, che aveva avuto la colpa di essere ubriaco al volante e di non aver fermato la sua auto allo stop della polizia. Questo giovane uomo afroamericano si chiamava Rodney King. Rodney King veniva pestato violentemente in questo filmato. Era una cosa che evidentemente era già successa, già moltissime comunità afroamericane avevano accusato la polizia americana, le forze dell'ordine americane di usare dei metodi, diciamo, non proprio ortodossi nei confronti degli abitanti, soprattutto della città di Los Angeles, di colore. Ebbene, l'unica differenza tra questo pestaggio e tutti gli altri è che questo pestaggio viene ripreso appunto da questo giovane uomo e viene dato alle televisioni americane, a tutti i telegiornali americani, e da lì davvero uno dopo l'altro a cascata succedono una serie di cose che porteranno forse ai più grandi atti di rivolta che si siano svolti sicuramente negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni. La rivolta di Los Angeles dura 6 giorni interi. A un certo punto lo stesso Rodney King che torna al microfono dicendo calmiamoci e cerchiamo di sistemare le cose, e più tardi vi racconteremo questa storia. Linee d'ombra da ieri ha deciso di allargare il raggio d'azione delle sue storie, quindi sia di quelle che raccogliamo, soprattutto di quelle che raccontiamo, e quindi avendo usato i vizi capitali come fondamenta della nostra casa, ora abbiamo deciso di allargare le storie per cercare di raccontarvi tutti quegli avvenimenti, tutti quegli episodi, piccoli o grandi, proprio come oggi, nella vita privata di Renato, ma anche poi nella vita pubblica di ognuno di noi, perché alla fine la storia di Rodney King è arrivata anche qui, fino in Europa, fino a casa nostra. Vi dicevo, Linee d'ombra racconta tutte quelle storie che hanno in mezzo un confine, una linea di demarcazione, che in questo caso è il bianco e il nero, che riguarda sì il colore della pelle, ma ovviamente non solo quello. Benvenuti a Linee d'ombra. Ero a piedi nudi con indosso la mia giacca, mi sembra di ricordare di un colore rosso e verde come la cravatta, pantaloncino grigio, un sole accecante. E l'angoscia di arrivare a quella scuola e trovare il coraggio di entrare senza conoscere una parola della loro lingua, questa angoscia mi distruggeva. Avrei voluto fermarmi lì, in mezzo a quella via, e girarmi per correre più veloce del vento da mia madre. Ma non potevo, le avrei dato un altro problema da affrontare. Dovevo farcela. E poi eccola lì, la scuola. Prima di entrare indossai le lunghe e pesanti calze, mi infilai le scarpe. Un vasto spazio con diversi disegni per terra, col tempo compresi che erano le linee che definivano un campo da cricket. Ecco, quei disegni mi dividono dall'austero edificio della scuola. Finalmente una suora esce e mi viene incontro. C'ero già stato qualche giorno prima a visitarla con i miei, ma avevo rimosso quel ricordo pensando che non fosse destinata a me, così lontana dal mio concetto di scuola, fatta di rumori, spinte, risa, abbracci e sicurezza. Questa invece era silenziosa, cupa, seria, antica. La suora con gentilezza si piega a prendermi le mani e sussurra qualcosa che sa di rassicurante ma che non capisco. E sempre tenendomi per mano mi accompagna in quella che comprendo essere una classe. Tutti si girano a guardarmi e tra sorrisini e occhiatacce dei maschi mi presenta a tutti, dice il mio nome, Renato, l'unica cosa che capisco. Da un banco in fondo si sente prima sommossamente, poi, una volta ricevuta l'approvazione di tutta la classe con risa ed eco ad un volume sempre più alto, quello che da allora in poi sarebbe stato il mio nomignolo, Tomato. Renato Tomato. La suora reprime questa escalation, mi fa sedere ad un banco di legno con una bambina, mentre continuo a sentire in basso fondo quel fastidioso ritornello, Renato Tomato, Renato Tomato. My first school day. Con il passare dei giorni la maestra comprese che era impossibile che io venissi colto da illuminazione divina e iniziassi a comprendere l'inglese e l'Afrikaans in modo mistico. Quindi decise di staccare me e la mia compagna di banco della classe, dando a lei il compito di farmi da insegnante, seduti fuori su un muretto nel giardino della scuola. Purtroppo più aumentavano le mie capacità di comprensione, più tempo mi facevano stare in classe. Comunque, avevamo conquistato uno spazio fuori durante le lezioni, specialmente di Afrikaans, il che suscitava la rabbia di alcuni dei miei compagni. Persino chi era bullizzato prima del mio avvento si riteneva idoneo a bullizzarmi. Io avevo 9 anni ed era portoghese, perché sapete che mio padre era sostanzialmente un emigrante e insegnava alle industrie a realizzare componenti di legno, modelli in legno per l'industria. All'epoca si facevano i modelli in legno e poi andavano in fusione. Quindi lui prima era stato in Brasile e poi in questa occasione qui in Sudafrica. Io avevo 9 anni. Siamo stati a Port Elizabeth per oltre tre anni. Dietro di me sedeva uno stronzetto afrikaner malvagio che passava la mattinata a punzecchiarmi e a darmi fastidio, sempre, fisso, come una malattia incurabile, costringendomi a maggiori sforzi per comprendere quello che veniva insegnato. Beh, quel giorno mi ribellai. La maestra non guardava mentre tutta la classe era attenta alla scena. Mi girai sfidandolo apertamente, dandogli una spinta. A quel punto la maestra si rese conto di qualcosa, ci richiamò all'ordine. Tornammo nelle nostre posizioni, ma lui non poteva accettare questo mio atteggiamento. Rischiava di essere preso in giro e di perdere una posizione dominante nei miei confronti. E allora, mosso dalla rabbia dell'affronto, mi infilò una matita nella schiena, dentro per diversi centimetri. Tutti guardavano la scena mentre io in assoluto silenzio e la maestra, girata verso la lavagna, sembravamo non aver avvertito nulla. Ricordo il dolore lancinante, le lacrime e il grido soffocati e non so chi mi diede la forza, ma portai il mio braccio dietro la schiena, afferrai la matita e la tirai via, sporca di sangue, posandola sul banco del mio assalitore vigliacco. Finì la lezione come se nulla fosse. Ancora ricordo che per fortuna quel giorno non c'era il doposcuola, quindi presi la strada di casa e una volta solo iniziai a piangere, tantissimo, mentre camminavo. Una volta raggiunta a casa smisi, mi asciugai il volto, attesi un po', entrai senza dire nulla a mia madre che, vedendo il sangue sulla camicia, mi chiese spiegazioni. Sostenni di essermi fatto male cadendo, mi disinfettò, mi mise un cerotto e la cosa per lei finì lì. Un giorno uno dei ragazzi più grandi mi chiese di giocare nella squadra di palla avvelenata. Si giocava esattamente come da noi. L'unica differenza era che la palla era quella del cricket, dura come un sasso. Io ero secco e veloce, facevano fatica a beccarmi, quindi diventai in breve tempo la scelta obbligata nella squadra dei più grandi. Il problema era che quando ti beccavano faceva veramente male. Scoprii in seguito che non c'era via di scampo. Dovevo mantenere alto il rispetto che mi ero conquistato. Mia madre, vedendomi tornare sempre pieno di lividi, decise che era giunto il momento di darmi un'arma per difendermi. Decise quindi di interpellare una specie di capoccia della comunità italiana, il quale ritenne che il karate fosse la via giusta per me. Così, dopo aver conquistato il rispetto a scuola, dovevo ripartire da capo in palestra. In tutto questo avevo suscitato un certo interesse anche in quei facinorosi ultranazionalisti africani che ci vedevano come feccia comunista, e non era raro che, andando ad aprire la porta, mi arrivassero un paio di cazzotti da gente che aveva più del doppio della mia età, come quella volta che decisero che il mio colore era sbagliato e quindi doveva cambiare. Un bel giorno fui catturato da una specie di banda di bianchi locali, portato a forza in un cortile, mi spogliarono gettando la mia roba in terra e mi legarono a un palo. Come fossero dei Sioux, presero a girarmi intorno dandomi delle manate che si erano precedentemente cosparse con lucido da scarpe nero. Io, muto, accettavo, passivo, nella speranza che finissero il prima possibile. Stanchi e forse poco soddisfatti a causa della mia sopportazione, decisero di rimandarmi a casa un pochino più pulito, gettandomi secchiate di acqua addosso, calda. Ricordo che due anni dopo, esattamente due anni dopo quell'evento, tornai a quel giardino, a quella casa. Spaccai molti dei vetri e avvelenai l'acquario. Forse questo non dovrei raccontarlo per il rischio di passare dalla ragione al torto, ma fui motivato da alcuni ormai divenuti fedeli amici, molto più grandi di me, che, sapendo dell'accaduto, ritenevano giusta una vendetta. E io non potevo esimermi. Io ci ho messo sei mesi, intanto molti sei mesi per quello che posso ricordare, per imparare un minimo di lingua e cercare di cavarmela per conto mio, anzi anche meno. E poi dopo circa un anno e qualcosa, per arrivare ad avere i primi amici affidabili, ecco. Rimanevano alcune sacche di resistenza, come un bullo grasso e grosso che sedeva tutte le mattine sulle scale di un negozio più adatto ai neri che ai bianchi, dove c'era un sacco di roba strana che puntualmente, quando passavo, mi faceva lo sgambetto, tentando, anche con delle spinte, di gettarmi a terra. Per un periodo non entrai più nel negozio, perché altrimenti mi toccava il doppio smacco in entrata e in uscita. Ma un giorno, passandogli davanti, accettai l'ennesimo sgambetto e poi mi fermai a guardarlo, senza pronunciare una parola. Lo guardavo e lui mi minacciava. Ma io non capivo. Era come se i suoni fossero attutiti, e poi il vuoto. Il vuoto assoluto. Quando mi ripresi, lui era disteso in terra in un mare di sangue, dolorante e piagnucolante. Io sopra di lui, con tre o quattro ragazzi che cercavano di tirarmi via. Avevo dolore ovunque, non per i colpi presi, ma per i colpi dati. Port Elizabeth era violenta e io mi stavo adattando. È una storia che risale a 50 anni fa e arriva proprio dalla parte più a sud dell'Africa. Port Elizabeth è una città di circa 1 milione di abitanti che si trova uno dei punti più a sud e anche più a sud, credo, di Città del Capo, così a vista. Ma sicuramente Renato me ne sa dire di più. Pronto? Ciao Renato, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, tu quando sei arrivato a Port Elizabeth, da dove arrivavi? Dove abitava la tua famiglia all'epoca? Roma. Noi eravamo di Roma, di San Lorenzo. Quindi tu, pronti via da San Lorenzo, ti sei trovato in un quartiere di Port Elizabeth. Sì, esatto, proprio così. Cioè, da una vita fatta di quartiere, San Lorenzo poi era un quartiere abbastanza vivo, aveva questa quotidianità fatta di partecipazione, amici, ci vedevamo, eccetera, eccetera. Poi sono trasportato, sì, lì in quel di Port Elizabeth, con un viaggio che durò anche di più del solito, perché ero chiuso lo stretto dei canali di Suez. Ah, perché ci andaste in nave? Sì. E quindi dura quanto? Una settimana, no? Quasi un mese. Wow, ma è una super avventura quella che hai vissuto. Senti, scusami Renato, ma il periodo, quei 3 anni, giusto? 3 anni avete fatto in Sudafrica. Sì, un po' più di 3 anni, sì. Sono tutti terribili come i primi 6 mesi di cui ci ha raccontato un estratto, oppure poi le cose sono cambiate? No, ora, terribile... Non so se è il termine giusto, cioè nel senso che poi a me hanno lasciato tanto, perché mi hanno insegnato a vivere e vedere le cose in modo diverso, quindi non riesco a dire terribile. Duri, molto duri, durissimi, sì, certo, mi hanno portato a capire tante cose, anche cose che ancora oggi succedono, eccetera, eccetera, e che probabilmente molti non si rendono conto di che cosa vuol dire vivere certe avventure. Però sì, duri, in ogni caso duri, molto duri. Renato, proviamo a tornare là un secondo. L'Afrikaans è un miscuglio di lingue, giusto? Sì, è la lingua ufficiale. C'è la lingua ufficiale sudafricana che è vicino all'inglese? All'olandese. È vicino all'olandese, ok, perché è un più, territorio... È più una lingua dura in quel modo lì, non... Sono proprio due modi di parlare diverso, quindi a me insegnavano l'inglese fuori dalla scuola con questa bambina e poi dopodiché andavamo in classe e facevamo lezioni normali di africano, perché comunque bisognava saper parlare in africano. E la classe era di bambini bianchi e bambini neri, oppure erano solo di bianchi? No, assolutamente, scherziamo davvero, erano solo bianchi, non i neri non si dovevano avvicinare nemmeno al cancello, insomma. Quindi no. Tu eri, diciamo, il tema non era il colore della pelle, il tema era la tua provenienza. Il tema era la provenienza, era l'abitudine che avevano loro di essere, di valutare le persone che non erano di quella comunità in modo diverso. Per cui c'entravamo anche noi, perché eravamo ritenuti, eravamo considerati non razziste, non, come possiamo dire, non portati ad essere diversi dalla gente di colore, quindi per questo venivamo esclusi. Insomma, mia mamma cercava di fare amicizia con quella che era stata imposta come la sua donna di servizio, perché non si poteva fare a meno assolutamente, però lei la trattava come un'amica e questo ci ha creato tanti problemi. Ah, vi ha creato dei problemi il fatto che lei fosse, diciamo, trattasse alla pari una donna. Esatto. Perché era nera la donna di servizio. Eh sì, per forza andava vita nera, la comunità italiana ce l'ha praticamente imposta. Senti, quindi tu hai vissuto davvero dal vivo e da vicino l'apartheid, per cui le persone nere non avevano degli autobus per loro, vivevano in zona sì, della sì, città. Sì, si alzavano quando io salivo, poi ovviamente non conoscendo le abitudini facevo moltissimi errori. Io salivo sull'autobus magari entrando nel settore che era, diciamo, più così rilegato ai neri, e c'erano queste donne, queste persone che si alzavano per farmi sedere. Che era abbastanza imbarazzante, poi oltretutto c'è il fatto che io non capivo, chiaro, che succedeva. Renato, e poi ti devo salutare. Cosa hai fatto poi nella vita? Cosa fai adesso? Adesso mi occupo di marketing e comunicazione. Ok, quindi l'aspetto resiliente che mi ha insegnato in Sudafrica lo sfrutto con l'industriale professionale. La resilienza del marketing. Ti ringrazio sì. Moltissimo Renato per la storia e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. A presto. Ciao ciao. C'è freschezza nell'aria, è una sorta di amara malinconia. È un giorno nuovo, però è qualcosa di nuovo arriverà. Oh sì, scienziati studiano cose, tra queste cose ci siamo anche noi. Sconfiggeranno quei mali, quelli più brutti, quelli più neri. Segnali in cielo ci spiegano tristezza ed allegria. Non sprechiamo parole, godiamoci quel che abbiamo qui. Oh sì, pensa. Questo splendido pezzo del Sic Tamburo lo abbiamo messo per salutare a modo nostro Elisabetta Imelio, che aveva fondato insieme a Gianmaria Cusani Prozac Più, era la donna di Acido Acida, probabilmente la ricorderete per quello, e hanno fondato poi Sic Tamburo, che hanno, tra le altre cose, hanno fatto anche questo pezzo straordinario. E Elisabetta ci ha lasciato domenica, e questo appunto è il nostro modo per salutare lei e in qualche modo anche Gianmaria e tutta la sua famiglia. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Linee d'ombra. Erano 20 anni fa, 19 per esattezza, e in questo giorno esatto, il 3 di marzo del 91, quando il suo nome, il nome di Rodney King, passava ad essere il nome di un tassista che lavorava a Los Angeles di origini africane, ad essere invece l'uomo che aveva fatto scattare la rivolta di Los Angeles per via di quel famoso pestaggio. Ed è di fatto ancora sinonimo di brutalità della polizia, quel nome. Il nome suo lungo le strade di Los Angeles, grazie a questo nome, si infiammarono nell'aprile di quell'anno, e la sua storia era stata catturata in video e diventò un momento determinante della storia di quella città, ma in realtà della storia delle relazioni razziali di tutti gli Stati Uniti. Rodney King, che poi è morto nel 2012, vive tuttora nella storia e nella cultura pop americana. Fino a poco tempo fa non esisteva un vero e proprio testamento culturale che perpetuasse la sua memoria, ma grazie agli sforzi di sua figlia, che si chiama Laura King, le cose stanno cambiando. In questa puntata, che si intitola Il bianco e il nero, la seconda storia di oggi è proprio quella di Laura, la figlia di Rodney King. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Rodney King era alla guida del suo taxi, in libertà vigilata, mezzo ubriaco, la notte del 3 marzo del 91, quando gli ufficiali della polizia locale di Los Angeles lo fermarono per un controllo su Foot Hill Boulevard. Era stato segnalato per eccesso di velocità, ma per paura di perdere la sua licenza, anziché fermarsi, decise di darsi alla fuga, dando vita ad un inseguimento rocambolesco che si concluse dopo 13 chilometri. Quando uscì dalla macchina, però, la sua condotta passò immediatamente in secondo piano rispetto al trattamento che ricevette. Gli agenti lo circondarono, gli spararono con taser e una volta a terra lo colpirono più volte sulla testa e su tutto il corpo con un bastone di alluminio. Lo calpestarono con la suola degli stivali. Il caso però ha voluto che quella sera un giovane appassionato di cinema di nome George Holliday soffrisse di insonnia e decise di andare fino al bar di fronte al suo appartamento con la sua Sony Handycam, sperando di inquadrare qualcosa di interessante. George Holliday filmò il pestaggio che dal giorno dopo diventò il primo esempio di citizen journalism, di giornalismo dei cittadini, e il suo video divenne il primo video virale del mondo. Quel video sgranato del pestaggio sbatté in faccia a tutto il pianeta i maltrattamenti che i neri subivano da parte della polizia, decenni prima dell'era dei Black Lives Matter, la vite nere contano. Un mese dopo il pestaggio, i quattro poliziotti coinvolti affrontarono il processo, ma una giuria priva di persone di colore, il 29 aprile del 92, li assolse tutti. Fu dopo l'assoluzione che alcuni manifestanti si radunarono agli angoli delle strade, appiccando incendi, saccheggiando negozi, aggredendo chiunque si parasse di fronte. I 6 giorni di disordini causarono 54 morti, quasi $1 miliardo di danni alla città. Il terzo giorno delle rivolte, Rodney King fece un appello appassionato davanti alle telecamere, dicendo: «Possiamo andare tutti d'accordo». Con questo intervento Rodney King divenne immediatamente un'icona dei diritti civili, ma si attirò molti critici che lo consideravano un uomo complesso, che attirava guai e non lo ponevano all'altezza di Rosa Parks, ad esempio, o Malcolm X. Ma Rodney King non è mai stato a suo agio con il ruolo che la storia e la società americane volevano assegnargli. Si trovò a suo malgrado coinvolto. L'anno successivo i 4 ufficiali furono processati davanti al Tribunale federale con l'accusa di violazione dei diritti civili. 2 di loro sono stati condannati e sono andati in prigione, mentre il capo della polizia di Los Angeles fu costretto a rassegnare le dimissioni. From my right. Now that old money getting laundered up. Watch it cycle. Bought my uncle's company. Now I tow car. Now I tow car. He made his first half a meal with Fred tow cars. With Fred tow cars. Black. Dopo le rivolte, Rodney King dedicò gran parte dei suoi altri 47 anni di vita a predicare la riconciliazione razziale e ad aiutare gli altri a lottare come ha fatto lui stesso per liberarsi della dipendenza da sostanze. Eppure non esiste una statua per Rodney King, non esistono strade intitolate a lui né targhe nelle biblioteche. Anni dopo la sua morte, avvenuta nel 2012, il capo della polizia, Charlie Beck, disse: «Alcune persone hanno visto Rodney King come un martire imperfetto, ma la sua eredità non dovrebbe essere quella dei disordini che si sono scatenati, bensì il cambiamento immensamente positivo che la sua esistenza ha portato sulla nostra città e sulla polizia in generale. Ma oggi gran parte della sua eredità sta svanendo dalla memoria. I disordini di quei giorni non rientrano nei programmi scolastici, sebbene alcuni insegnanti scelgano di raccontarli, e non ci sono tributi pubblici di nessun tipo». Dallo scorso anno però Laura King, la figlia di Rodney, sta lavorando per mantenere la memoria del padre. Lo scorso 3 marzo, nel 27° anniversario dell'inizio delle rivolte di Los Angeles, lei ha lanciato una borsa di studio che è chiamata I Am a King. Con la borsa di studio intende fornire un supporto economico a quei genitori neri affinché possano svolgere un ruolo più attivo nella vita dei figli. «Quando mio padre venne risarcito, e venne risarcito con un assegno di $4 milioni, racconta, usò quei soldi per offrirmi delle possibilità. Mi fece vedere che esisteva un altro mondo al di fuori dei quartieri di Los Angeles dove vivevamo. mi portò a sciare sul Monte Baldi, mi fece visitare Venezia, frequentare tante di quelle mostre d'arte che non saprei contare. Fece di tutto per promuovere i miei talenti, pagandomi master, offrendomi la possibilità di frequentare degli ambienti artistici, offrendo ad altri ciò che mio padre ha offerto a me. Spero di mantenere viva la sua memoria. A lui non interessava il clamore da cui era stato travolto. Lui si preoccupava solo di fare la differenza nella vita delle persone e fare un cambiamento. Per questo nel 2016 ho creato una fondazione in suo onore, la Rodney King Foundation for Social Justice and Human Rights. Sfrutto la fondazione come piattaforma per creare il dialogo tra il Dipartimento di Polizia di Los Angeles e i giovani neri dei nostri quartieri. Voglio aiutare a costruire un futuro che a mio padre spero piacerebbe. King of my city, king of my country, king of my homeland, king of the filthy, king of the fallen, we living again. King of the shooters, looters, boosters, and ghettos popping. King of the past, present, future, my ancestors watching. King of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed, king of the wisdom, king of the ocean, king of the respect, king of the optimistic and dreamers that go and get it. King of the winners, district and geniuses with conviction. King of the fighters, king of the fathers, king of the belated, king of the answer, king of the problem, king of the forsaken, king of the empathy and resentment, king of remorse, king of my enemies, may they fall defeat, I rejoice. King of the skyscrapers, dodging haters, pro religion. Nine faces, go against the mind, race them with precision. I embrace them with collision. Kings did it, king's vision. Black Panther, King Kendrick, all hail the king. I dropped a million tears. I know several responsibilities put me here. I don't pedal backwards, but I live old fashioned. The lens that I'm looking through won't prescribe you the right glasses. Masses are now free. Ashes I'm dumping out, about to spread all across seas. Sisters and brothers in unison, not because of me. Because we don't glue with the opposition, we glue with peace. But still, fuck up your organization if any beef. What do you stand for? Are you an activist? What are your city plans for? Are you an accident? Are you just in the way? Your native tongue contradicting what your body lands. We say, are you a king? Are you joking? Are you a king? Are you posing? Are you a king? Are you smoking bull rush to keep you open? Because a king don't cry, king don't die, king don't lie, king get for king, get by king, don't fall, kingdom come when I come, you know why. I am T'Challa. Black Panther, il brano che Luca Micheli sceglie per chiudere la storia di Rodney King. Vi ricordo che il nostro Paolo Corleone ha creato proprio ieri e aggiorna quotidianamente una playlist su Spotify che contiene tutti i brani che scegliamo per puntellare le storie che vi raccontiamo quotidianamente. C'era anche un pezzo, mi pare, di Frankie Hi Energy in cui si citava Rodney King, credo fosse Fight the Fight. In Fight the Fight a un certo punto citava proprio Rodney King, che non a caso è diventato un'icona a più livelli. Ora sentiamo Le strade in diretta, poi torniamo con un ospite qui a parlare proprio di questo tema, il bianco e il... Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate. Vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Linee d'ombra. Il bianco e il nero, si intitola questa puntata. Vi stiamo raccontando storie che stanno al confine tra quello che è bianco e quello che è nero, non solo da un punto di vista del colore della pelle, ma in qualche modo anche del sentire, del vivere la nostra vita. Vi abbiamo raccontato due storie, vi dicevo, una che arrivava dal Sudafrica, da un giovanissimo ragazzino italiano che si trovava in Sudafrica alla fine degli anni 60 per motivi di lavoro del padre. Poi vi abbiamo raccontato la storia di Rodney King. E per cercare di raccontare un pochettino di più e magari anche un pochettino meglio se esiste e qual è il confine tra il bianco e nero, abbiamo al telefono con noi un ospite del quale siamo molto molto felici. Lui è un rapper di 29 anni, è italiano, è bresciano, ma è nato in Nigeria, quindi semplicemente ha la pelle nera. È Tommy Cuti. Pronto? Ciao Tommy, buongiorno. Ciao, tutto bene? Grazie per avermi dato lo sconto di 2 anni. Purtroppo sono 31. Però ah, sì. ne hai 31, ok, perfetto. No, ne devo compiere 31 quest'anno. Senti, Tommy Cuti probabilmente lo conoscete perché ha partecipato a Pechino Express anche nel 2018, quindi magari diciamo al grande pubblico anche televisivo e non solo gli amanti del rap o della musica ti conoscono, Tommy, anche per quel motivo. A cosa stai lavorando in questo momento, Tommy? In questo preciso istante sono in studio a lavorare a una canzone. Ok, quindi a un disco nuovo o a un pezzo? Sì, sì, un disco. Diciamo che facciamo sempre pezzi. Poi a volte sono dentro dischi, sono dentro dischi collaborativi, però diciamo che faccio sempre canzoni. Tommy, Tommy, senti, tu sei nato a Lagos, giusto? In, sì, in Nigeria? No, in un paesino a un'ora da Lagos, si chiama Abeokuta, dove è nato anche Fela Kuti. Okay. Ah, sei del paese di Fela Kuti, quindi sì, ma sei parente di Fela Kuti? No, alla solo... lontana sì, perché la nostra genia dei Kuti è la stessa. Ah, perché Kuti è scritto con la K, giusto Tommy? Sì, sì, sì, esatto. Fela Kuti, per chi non lo sapesse, è uno probabilmente dei più grandi musicisti di sempre, di origini nigeriane, quindi insomma è conosciuto per chi lo conosce per la musica che ha fatto. Tommy, tu ti dicevo sei nato vicino a Lagos, poi hai vissuto praticamente gran parte della tua vita in Italia, sei laureato a Cambridge in Inghilterra, insomma sei sempre stato in giro e sempre viaggiato, però la tua formazione è bresciana, dico bene? Sì, esattamente, anche se sono nato in un comune della provincia di Mantova, sono cresciuto praticamente a Brescia, tutta la mia esperienza artistica si è sviluppata nella città di Brescia, che sì, è la città più multiculturale d'Italia. Senti, è un case study. E tu ti sei sempre trovato di fronte al tema del ah, sei italiano, ah, però sei nero, ah, però sì, da dove vieni? Senti, quanto tu hai capito qual è il confine tra il razzismo e la semplice ignoranza, invece? In Italia è un confine molto labile, perché cioè io riconosco che spesso e volentieri molta gente fa cose che per noi neri magari sono percepite razziste, però non se ne rendono conto perché chiaramente è ignoranza, cioè certe volte, cioè anch'io soprattutto da ora che abito a Milano da un paio di anni, spesso mi fa strano quando torno in paese dai miei amici, perché noto che anche i miei amici aperti, che sono chiaramente tutti impegnati socialmente, hanno una visione da cittadini del mondo, spesso volentieri cadono in banalità che purtroppo per me risultano razzismo, però sono cioè, piccoli elementi di ignoranza. Tu cosa fai? Ogni volta lo sottolinei, lo fai notare oppure lasci correre? Vuoi sapere una cosa? Ti prego. Tipo, te la devo dire. Dimmela. Cioè, quando abitavo lì e avevo a che fare solo con quel tipo di persona, credevo che fosse la normalità, mi stavo quasi facendo l'abitudine, dicevo, vabbè, li sopporterò, cioè, non è colpa loro. Sinceramente ultimamente che abito a Milano, un altro tipo di vita, conosco un sacco di gente magari con una certa apertura mentale, ma anche educata abbastanza da non fare quelle battute ovvie da italiano medio, ultimamente quando torno in paese li metto in riga e mi arrabbio e litigo e dico no, non lo accetto, perché siamo nel 2020. Senti Tommy, proprio perché tu sei stato spesso in giro, hai vissuto anche negli Stati Uniti, tu hai scoperto, c'è qualche vantaggio nell'essere un italiano oggi, nel 2020, fuori da questo paese? Al di là di quello che sta succedendo nell'ultima settimana, legato al virus, lasciamo stare quello, però diciamo, non so, nella tua formazione musicale, nel fatto di parlare questa lingua, c'è ma un vantaggio sì, oppure no? Cioè, io credo che, cioè, alla fine ho studiato in Inghilterra e anche in America, no? Avevo fatto l'exchange student in quarta superiore. Ho realizzato che comunque c'è tutta la nostra tradizione dell'arte, della poesia, comunque fa parte inevitabilmente di ognuno di noi. Infatti io mi rendo conto che proprio nella scrittura delle mie canzoni, no? Cioè, mi rendo conto che in inglese mi verrebbe molto più facile, perché in inglese una frase, se tu ci credi, puoi metterla come ti pare. Invece in italiano dobbiamo sempre analizzare, trovare una maniera per non renderla banale. Abbiamo, no, quella rima è banale, quella parola è banale. Abbiamo cioè, molto è più complesso, certo. È proprio molto... al fatto che siamo in un paese di poeti e quindi sembra che lo standard sia automaticamente più alto. Chiarissimo. E allora a questo proposito ci sentiamo proprio il tuo pezzo, che forse è il pezzo più conosciuto ed è perfetto per la puntata di oggi, che è Afro Italiano. Ciao ancora, ciao Tommy, grazie. Grazie mille. Buona giornata. Ciao. Esulto quando segna Super Mario, non mangio la pasta senza il parmigiano, ho la pelle scura, l'accento bresciano, un cognome straniero e comunque italiano. A volte mi sembra di essere qui per sbaglio, san poco di me, son loro bersaglio, ciò che ho passato loro non lo sanno, è il mio passato mai lo capiranno. Tu dai del negro, dell'immigrato, il tuo pensiero è un po' limitato, il mondo è cambiato, non è complicato, afro italiano, è un complicato, non sanno chi siamo. Questo stato, vivo e lontano, ho letto il tuo scatto, chi non si muove ed è solo il colore, la nostra nazione sta scritta nel cuore, sono afro-italiano. fila in questura delle mille facce della mia cultura. È la melanina ciò che li cattura. Io non ho dei dubbi sulla mia natura. Quando io rappo è in italiano, e anche se parto resto un italiano. La prima volta che ho detto ti amo, ti giuro l'ho fatto in italiano. E con Tommy Cuti che ci canta Afro Italiana andiamo verso la fine della puntata di Linee d'Ombra e vi raccontiamo il pezzo di storia seriale che vi raccontiamo ogni giorno, la storia di Cheryl che si è trovata all'interno di uno di quei drammatici avvenimenti che scoppiano purtroppo nelle scuole americane saltuariamente. C'è una sparatoria che ha lasciato per terra diversi suoi compagni e Cheryl ci sta raccontando, grazie a Mauro Pescio che ha raccolto questa storia passo dopo passo, cosa è accaduto. Ora abbiamo, la giornata è finita e torniamo con lei a casa e siamo con la quella notte, esattamente con lei. I mean, I cried the entire day and then at some point I kind of just passed out. I was still in my clothes. Quella notte ho pianto di rabbia, fino a quando non sono crollata addormentata. Mi sono svegliata ancora vestita, con gli occhi gonfi dal pianto. Ho preso il telefono e c'era un messaggio della mia migliore amica che mi diceva che Ellen, un'altra amica, era morta. Era una delle mie amiche più care. Ho ricominciato a piangere di nuovo. Non sono riuscita a mangiare nulla e il mattino dopo, insieme ad un'altra amica, siamo andate a fare una veglia al parco. Ci siamo trovati spontaneamente. Tutti noi ragazzi sopravvissuti alla strage eravamo su quel prato, davanti agli edifici. È stato molto difficile. Siamo andati sotto l'edificio in cui ci sono state le vittime. Ci siamo riuniti per scambiarci le ultime notizie più fresche. C'erano i ragazzi più giovani, sui 14 anni, ai quali noi ragazzi più grandi facevamo una specie di tutoraggio all'interno della scuola. Volevano continuamente sapere cosa era successo e come avevamo fatto a superare il canale, come avevamo saltato. Erano più sconvolti e più strapazzati di noi, anche se noi più grandi cercavamo di mantenere le voci ferme, si vedeva che eravamo scossi. Il movimento è iniziato sui social, perché lì parlano tutti tramite, comunicano sì. Tutti tramite Twitter, tramite Snapchat. È un po' iniziata subito la cosa, perché subito. Lì c'è un po' questa quasi abitudine che, cioè, è quasi diventata una specie di prassi. Il primo giorno tutte fanno notizie nazionali, tutti ne parlano, il presidente si fa il discorso, dicono sempre thoughts and prayers, vi mandiamo preghiere, siete nei nostri pensieri. Passano quei tot giorni e poi non se ne parla più. E c'era un po' questa paura e questa, insomma, che venisse dimenticato entro la settimana. E allora, essendo tutti molto presi da questa storia, anche molto abili nel comunicare via social, è iniziata praticamente. La strage è avvenuta il mercoledì e il sabato c'è stato il primo speech in cui una di noi ha parlato del movimento Never Again, mai più. Pochissimi giorni dopo le esternazioni solite del presidente. Subito abbiamo avuto un grande clamore. Chiediamo un controllo delle vendite delle armi. Noi vogliamo andare in giro in tutti gli Stati Uniti, in tutte le scuole e continuare a portare la nostra testimonianza, perché sempre più giovani diventino consapevoli che non basta mettere le porte blindate nelle classi e ricordare i giovani caduti nella scuola. La prima è una soluzione estemporanea e la seconda la solita dichiarazione cinica dei politici. Ma la verità è che manca un controllo nelle vendite delle armi. Chiunque può comprarsi delle armi di offesa letali. Stiamo procedendo nella nostra battaglia contro le menzogne dei politici che sostengono la lobby delle armi, smascherandoli, invitandoli a parlare nei luoghi dove sono avvenute le stragi. In primavera siamo stati a Washington per una grande marcia contro le armi e organizzeremo in tutti gli Stati Uniti delle manifestazioni per tenere alta l'attenzione. A dire il vero, dopo la marcia di Washington avevamo gli esami di fine anno e quindi abbiamo dovuto fermarci, ma ora siamo ripartiti. Ne approfitto di questi ultimi secondi per salutare, non lo diciamo mai, tutti gli amici che ci ascoltano non in diretta alle 15 ma in differita alle 5:10 della mattina. Se siete per motivi vostri di lavoro o personali svegli a quell'ora e ci state ascoltando, grazie per averlo fatto, grazie per farlo tutti i giorni, ma soprattutto mandateci anche voi una storia, linee d'ombra@radio24.it. Ringrazio anche tutti quelli che al 349-238-6666 hanno segnalato quanto sia ancora una capra in matematica, considerato che dal 3 marzo del 1991, cioè data del pestaggio di Rodney King, ad oggi non sono 19 gli anni, ma sono 29. Devo averlo detto un paio di volte, visto i messaggi che mi sono arrivato che mi correggevano. Ringrazio chi mi aiuta a fare questo programma: Paolo Corleoni, Anita Panizza, Mauro Pescio, Luca Micheli. Ora lasciamo la linea al GR e torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!